Iron Man, abbiamo fatto tutti sti tutorial per poi finire così, come al solito, per prendere dal panico. Ci stavamo, siamo arrivati un attimo in ritardo. Eccoci. È vero che ci siamo, siamo barbarate tutti quanto. Fate capire che ci siamo, al povero Iron Man. Ciao a tutti, ragazzi. E bentornati su Radio Forte 100 Celle Avengers in questo incredibile sabato 21 maggio. Ne abbiamo saltata una e ci brucia, e purtroppo ce ne faremo una ragione, ma d'altra parte, se era vigilia l'altra volta di un grande evento, lo è anche questa volta, grazie al nostro spostamento voluto, calcolato, assolutamente calcolato, ma ne parleremo in seguito. Prima permettetemi di salutare alla mia destra il buon Silvano. Buonasera a tutti. Mentre alla mia sinistra saluto Virginia. Buonasera, sono tornata. Mentre a seguire la dotta Gabri. Buonasera. Non è la mi dotta becco Gabri. Questo titolo questa volta, grande. No, la dotta bello, era, bello. La dotta era a seguire la dotta Betta, ma io ormai sto perdendo pezzi. La dotta Betta. Oh, Giorgi! Ma dov'è Giorgi? Giorgi. L'ho pure messo nel promo. Ne parleremo di dove è finito quel scansafatiche di Giorgino, che non ha fatto in tempo a diventare dei nostri, che già si è defilato. Jorge il meteoroso. È il meteoroso, ma permettetemi comunque di continuare con i saluti mentre riconquista la sua vecchia postazione la professoressa Viola. Yuppi! Ciao, ed amici. È contenta di farlo. Sì, sono così contenta. Male anche perché sto qui con un carissimo amico. Chi è? Chi è? Chi è? È un altro rappresentante della musica forte, incredibile. È un polistrumentista, voce Vasco Rossi? L'esempio. Lo annuncio. Ligabue. Francesco Casali. Buonasera a tutti. Incredibile, già ospite di 100 Celle Avengers, sia nella versione post prodotta che nella versione prodotta, ormai vecchia conoscenza. Che si presenta quest'oggi non diciamo senza qualche dono, come si dice, busta coi piedi anche lui, ma tutto questo anche non lo vorrei spoilerare troppo prima di aver lanciato quella che vuole essere una canzone sbarazzina, sì, con l'avvicinarsi del caldo. Esatto. Il caldo qui a Roma ormai è scoppiato, come penso nella maggior parte di Italia, dello stivale, ecco, dello stivale, esatto. Grazie, ma ora che ci penso, questa voce così suave che c'hai, potresti utilizzarla anche per dare delle coordinate prima del pezzo? Ah sì, certo. Come prego. Sempre potete seguirci sul nostro sul sito di Radio Forte, potete seguirci su Instagram, su Twitter, basterà digitare 100 Celle Avengers Radio Forte, ma il canale che noi prediligiamo è certamente... Ti mando Telegram. Telegram, esatto. Incredibile. Esatto. Non lo conosciamo, non lo usiamo, ma lo proponiamo. Ma lo lanciamo. Quindi aggiungetevi numerosi e numerose al nostro canale Telegram per scoprire in diretta con noi le chicche, sia durante le dirette che anche insomma durante la settimana. Io lo dico sempre nella speranza così che questa chat venga invasa. Non devi calare no, plane, vabbè. Devi niente, minchia. Comunque, ciao Manu. Bloccatemi. Ciao Manu. Va bene, realismo su 100 Celle Avengers Radio Forte, ma sempre con quell'allegria che appunto ci porta al pezzo che sempre Gabri aveva proposto per l'inizio sì. di questa puntata. E parliamo di un brano del mitico Edoardo Vianello, che ancora se la sente, beata lui, insomma, è molto sbarazzino, come dicevi tu, quindi anche molto estivo. Vai con un classicone, Guarda come dondolo. Guarda come dondolo, guarda come dondolo, con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, fallo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille lucciole venirmi contro insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo, con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi d'amor. Guarda come dondolo, guarda come dondolo, con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma ma vedo mille mille mille lucciole venirmi contro insieme insieme a te. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Guarda come dondolo con il twist. Con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano. Forse sono brividi, brividi d'amore. E niente, ho voluto restituire un po' di così compensare l'allegria creata da Ivianella. Eh sì, un pezzo sbarazzino. Anche per far capire che la regia si è già svuotata, il dramma si è già consumato, Ariel è fra noi. Eh sì, e quindi è tornata Ariel, quindi. E quindi niente, tutto andava bene finché poi Ariel è cresciuta. E fra un po' farà il fonico al posto di Silvano. Era che invece un risale, riprende la postazione, incredibile, incredibile. Indossa la cuffia e mi dà solo il tempo di dire che questo momento è dedicato all'attualità, giusto? All'attualità, sì. Partiamo da quell'attualità, quella proprio più stringente, anche alle grette, alle grotte. Sì, parliamo di Enotica. Mi ero permesso di dire appunto che l'altra volta benissimo anticipavamo il primo maggio con tutto sì quello che ne consegue, invece in questo caso sì, siamo molto contenti e contente di annunciare che la settimana prossima qui in quel del Forte Prenestino, quindi venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio si svolgerà la decima edizione decima edizione di Enotica. C'è chi se lo vive non anche si parla da siamo cioè rimasti Roma, ragazzi, comunque voglio dire perché sì è vero atteso anche perché chiaramente negli ultimi due anni è saltata sì e quindi quest'anno si ripropone sempre come decima edizione, come se il tempo si fosse fermato praticamente. Ricominciamo da lì da dove avevamo dove eravamo arrivati. Quest'anno avremo 30 vignaioli con i loro ottimi vini che ci faranno degustare appunto nelle due piazze d'armi anziché dentro sotto diciamo alle celle e quindi 30 vignaioli con vini biologici biodinamici e il tutto arricchito con splendide performance, concerti, installazioni un po' sparse diciamo per il forte e anche le cucine ovviamente che parteciperanno. Quest'anno sono 5, fanno parte tutte del Movimento Genuino Clandestino. Quindi insomma un programma bello ricco, vi invitiamo tutte e tutti a partecipare. Mi raccomando, gli orari di ingresso entro le 18, ci raccomandiamo, ancora siete in tempo utile per ritirare i talloncini qui al gazebo che abbiamo allestito in piazza. E da mezzogiorno alle 18, giusto? Sì, potete trovare comunque tutti gli orari sul sito, vi aspettiamo. Quindi vi aspettiamo. No, mi permetto appunto di puntualizzare insomma per chi poi anche quando lo legge, anche quando lo sente dire poi non gli entra diciamo sì. E comunque a chi è rimasto giustamente a Enotica quello che era prima diciamo del biennio meraviglioso che abbiamo vissuto e quindi fondamentalmente ci sono degli aspetti che lo rendono diverso dagli altri e quindi cioè, siccome generano molte domande che poi vengono poste a chi insomma sta lì al banchetto di Enotica, insomma noi che siamo in formazione possiamo sciogliere dei nodi, diciamo piccoli nodi. Vai, dei cioè, per esempio, interrogativi. Chi avesse per caso sentito dire che Enotica sarà un'iniziativa con un diciamo un numero circoscritto di persone, è in errore o forse No. No, cosa? Non è in no errore. Allora, quest'anno è un'iniziativa a numero limitato, sì. Abbiamo deciso di quindi concentrarla, sì. Quindi per sintetizzare, insomma, stiamo invitando nei giorni che già precedono Enotica, cioè questi che stiamo vivendo, già adesso, sì, in questo momento, se venite al Forte, probabilmente c'è il banchetto che, sì, vi accoglie e vi fa prendere le prenotazioni che permettono a noi tutti di gestire questo evento in questa nuova, incredibile formula. Stupenda. Dei simpatici, coloratissimi talloncini che ricordano, tra l'altro, le tessere del Monopoli. Ecco, notevamo questo al banchetto di ieri. Sì. L'altra particolarità, che forse non tutti sono abituati a vivere o comunque la vivono a modo loro, è che diciamo, la degustazione quest'anno è un po' più centrale, anche se già lo era ovviamente, l'evento è legato ai produttori, ma quest'anno è importante, come dicevi prima, presentarsi per tempo, perché le prenotazioni, esatto, che stiamo dando poi sono limitate e sono valide fino alle 18. Tant'è che se per qualsiasi motivo all'ultimo momento qualcuno non dovesse riuscire a raggiungerci, vi invitiamo a cedere il talloncino così che qualcun altro potrà partecipare al vostro posto. E quindi sì, come dicevi, il festival quest'anno si incentra più sulle degustazioni anziché, ecco, sulle poi performance musicali, perché non ci saranno concerti. L'altra cosa convenzionale che tutti, esatto, si aspettano di vedere, il grande palco, quest'anno il grande palco saranno, non ci sarà, una serie di piccole postazioni, parchetti, palchetti, dove si esibiranno vari artisti e performers e con gran finale nell'arena esterna, un'iniziativa che comunque finisce presto, quello pure volevo dire e far capire, perché insomma, se venite tardi, insomma, alloggiate male, ecco, non alloggiate proprio, ecco, questa in sintesi. Proprio l'hai chiusa un po' acida, però vabbè, comunque una bella iniziativa. Io l'ho detto che non ho pazienza, infatti. Comunque te la sei cavata benissimo, devo dire, col comunicato. Lo vogliamo leggere in integrale? No. No. È tornata Virginia, io mi rassereno un pochino. Tu hai, ecco, giusto il tempo di sederti, mettere la cuffia e dirmi che cosa c'è scritto, ecco, davanti. Allora, mi sa che partiamo con un contributo per omaggiare il nostro Giorgio. Ah, ok, perché l'attualità, scusate, esatto, è vero, l'attualità era fatta anche ovviamente di meteo. Noi avremmo voluto dirvi che cosa fare i giorni di Enotica, cosa indossare, quali gadgets portare per affrontare il meteo, ma ahimè Giorgio, detto Giorgino, che aveva fino adesso sempre assolto la sua funzione di mentiroso con la sua sigla, oggi gliela tolgo la sigla, perché in realtà non è con noi. Non è con noi, e quindi noi con questa altra canzone lo evochiamo, lo celebriamo e prendiamo tempo. L'attualità è anche questa. Vuoi tu portare ad Ascona sul lago Maggiore, col Chianti, Chianti, Chianti, Chianti, Chianti, potremo mangiare risotto, risotto, risotto, risotto, risotto, risotto, risotto. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi ad Ascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore, il tuo amore, tanto amore. Oh Giorgio, un ristorante in piazza. Cameriere? Signore? Signorina? Per favore. Un espresso? No, vino! Oh Giorgio, Giorgio, oh Giorgio del Lago Maggiore, Giorgio, mi vuoi tu portare ad Ascona sul Lago Maggiore, col Chianti, Chianti, Chianti, Chianti, Chianti, potremo mangiare polenta, polenta, polenta, polenta, polenta, polenta, polenta. Oh Giorgio, se tu vuoi portarmi ad Ascona, devi offrirmi con tutto il tuo cuore, il tuo amore, tanto amore. Oh Giorgio, stringi come Virginia, radio forte, click on player solo quando gioco a passi notte, cento accella range style. Ciao a tutti, canale 6, ascolta la radio. 100 stelle si vende pazzi. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, era Nella Colombo, un disco appena uscito, mi piace pubblicizzarlo in questo modo, Giorgio del Lago Maggiore. È nuova. È uscita okay. Adesso. Poi io pensavo che era un Dio, sembrava andata a ripescare. Sì. Ma non si capisce Easter. Quando sono ironico, forse, perché il mezzo radiofonico trasmuta tutte le... Io non avevo capito che non avevano capito. Ci siamo guardate per 10 minuti. Era un pezzo un pochino datato che serviva per omaggiare Giorgino, che non è con noi, ma che è con noi. Però a proposito di chi è con noi anche quando non è con noi, cioè colei che fa sempre i compiti, io devo passare la linea a un certo punto, perché mi devo stare zitto, alla Virginia che ho accanto. La Virginia che è accanto vorrebbe introdurre la rubrica All'Epeca, che è una neonata, diciamo, tra le rubriche, e quindi mi manca soltanto di dire sigla. È una nuova diavoleria moderna. All'epoca Roma non c'erano motorini con questi scalmanati, ma c'erano i filobus. A me piace molto questo programma di Paolo Limiti. All'epoca. Bellissimo. Oh, se non sbaglio abbiamo anche un sottofondo adatto per questo Paolo Limiti, per il Paolo Limiti che è in noi. E niente, volevo fare un piccolissimo omaggio a questo evento che è Enotica e che appunto ci sarà la prossima settimana, parlando della colonna sonora di un film che, diciamo, parlando da non bevitrice, è comunque un bell'inno al bere bene ed è un bel film, diciamo, solare. Certo, non stiamo parlando di un film capolavoro, ma diciamo che viene portato su dalla propria colonna sonora. Il film è A Good Year, cioè in Italia è uscito col nome di Un'ottima annata, e racconta le vicende dell'anaffettivo broker Russell Crowe, americano, che riceve in eredità una vigna con conseguente villa in Francia dallo zio, e in questa villa lui si ritrovò a provare quelle poche emozioni che poi in realtà quando diciamo crescendo riuscì invece a tenersi sempre più dentro, e quindi questo posto gli porta alla memoria tantissimi bei ricordi e tantissime belle emozioni. In questa cornice, diciamo, che si alterna tra l'America e la Francia invece bucolica, troviamo una colonna sonora che appunto ci innalza il livello del film, ed è di quello che vi volevo parlare. È sicuramente una colonna sonora che contiene dei pezzi nuovi, dei pezzi originali di Mark... Aspettate che arriva il nome che io non so pronunciare, Streitenfeld. Sì, Mark Streitenfeld, e, appunto, che mette le musiche originali, mentre tutto il resto della colonna sonora ci riporta a delle sensazioni che avremmo potuto sentire appunto all'epoca. E qui c'è un piccolo esempio di una mini carrellata di appunto dei pezzi. How can I be sure of you? You should have fallen in love with old Cape Cod. Sempre più all'epoca. Boom. Quand notre cœur fait chante sur mon chemin. Ecco, come avete sentito anche dalle registrazioni di questi brani, stiamo parlando di parecchi anni fa. E i compositori di queste musiche erano del calibro di Charles Trenet, Josephine Baker, Patti Page, ma soprattutto Harry Nilsson, che fu un prodotto dei Beatles, anche perché prodotto dai Beatles, ma che io scoprì grazie esattamente a questo film. Quando vidi questo film mi andai il giorno dopo a comprare la colonna sonora in CD nel lontano 2006, quindi mi è piaciuta veramente molto. E appunto perché abbiamo fatto un piccolo omaggio ad Enotica, diciamo possiamo chiuderla qui, ma con un brano della colonna sonora che è però del 2003, del bellissimo gruppo, del bellissimo trio Macalì, che appunto si è formato nel 2003 ma che con questa atmosfera ci sta perfettamente. E quindi prego maestro. Oh, mi stai a rubare il lavoro, eh? Thank you. On parle de toi, on parle souvent, et tant de fois jusqu'à présent, sans réfléchir, sans faire d'esprit, d'un avenir cher à ce prix. Mais mon parler est bien trop franc, devant tes excuses à de francs. Je pense encore être invincible, de tout mon corps être indicible. Et s'il le faut, je veux bien croire tous mes défauts dans un tiroir. Ce qu'il nous faut, un coup à boire. Allons nous noyer dans tous les bars. Ce que ta bouche a dans le sang. Pourquoi me dire ce que l'amour avait de pire pour les beaux jours. Quand on rêvait, on parlait peu. Maintenant tu causes et pas qu'un peu. Il y avait des gosses, on était vieux. C'était minable mais savoureux. Et s'il le faut, je veux bien croire tous les ragots brefs de comptoir. Ce qu'il nous faut, c'est se coucher tard. Allons nous paumer dans tous les bars. Il faut du temps, au temps et la manière pour que deux amants restent de pierre. Et si de temps en temps ce goût amer était le fruit de nos prières. Il faut du temps, au temps et la manière pour que deux amants restent de pierre. Et si de temps en temps ce goût amer. Enoteca Forte Prenestino, dove anche il cibo ti avvicina al divino. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 17.23 di questo sabato 21 maggio, che cosa succede? Che siccome ho sabotato i freni della macchina di Silvano, la sua rubrica non potrà andare in onda, e quindi andrà in onda in sostituzione lo spin-off ormai noto a tutti come Campioni del Mondo, cioè i campioni di cui non si occupa Silvano. Sigla! Lo spinzolo del cane campionato. Il coccodrillo campionato. Il gufo con gli occhiali campionato. La luce di un mattino campionato. Campionato. Il mondo campionato. Campioni. Ogni nota che sento. Sidi, ma sei tornato, non ti avevo visto, grande, quindi tutto a posto con radiatore, eccetera. Ma bene, io non ho capito, ma chi è che ha malato l'acqua? Cioè, è incredibile. Ma niente, ma non ti preoccupare, ho giusto il tempo di introdurti questa cosa che avevo pensato. Quella cosa che mi hai detto mesi fa e che non ti ho mai fatto partire, praticamente. Nei miei brainstorming interni, sì, me lo dico da un po' di tempo, ma... Ma prego, così. Prego. Allora, mi era rimasta sullo stomaco, ma poi ci ho messo una pietra sopra, poi in realtà l'ho rimessa in Campioni del Mondo, che in realtà trattava campioni acustici, in questo caso trattiamo proprio i campioni veri, e quindi siccome la 100 Celle Logic Orchestra comunque ha protestato e mi ha fatto notare una cosa, uno scippo che comunque poi i loro legali cioè, porteranno in tribunale, io ne sto solo parlando così al popolo, ecco, il software appunto un software che non citeremo per non fare pubblicità, lo chiameremo Magic Pro ha al suo interno una vasta libreria di campioni che i musicisti possono utilizzare per, diciamo, intonare un po' delle cose, cioè comunque dei mattoncini di roba già fatta, già suonata, di tutti gli strumenti. Quindi se io vado alla voce chitarra e cerco un sample qualsiasi di chitarra, capace che trovo una cosa del genere. Figo. Magari a Savella suona così, oh. Voglio dire. E questo lo trovi più o meno alla prima voce del menu chitarra distorta. E mi fatti quindi un leggerissimo. Quindi questa è una piccola vendetta personale verso un personaggio che comunque non ha mancato di vivere quella metamorfosi che vivono tutti coloro che vivono il suo percorso. Quindi un'amica di Maria. Un'amica di Maria che poi uscendo dalla scuola di Maria è diventata un'arpia, fa tutto rima. Si tratta di Giordana Angi, che era anche una delle mie insomma, favorite di quell'anno, infatti ha vinto comunque amici, mi stava anche simpatica, però c'era questa cosa poi che diceva no, la chitarra di sto pezzo, che comunque era la sua hit di quell'anno, che tutto l'anno si sentì per tutte le radio, no, la chitarra ho proprio voluta così perché io quando faccio le cose la lama è un po' scesa. Detto ciò, appunto, il pezzo di Giordana Angi sul campione relativamente simile, non è uguale proprio, giudicate voi. Cioè, ha ripreso un po' la melodia, ha cambiato. Oh, però il giro è bello, Ha cambiato la tonalità. Non brogliate. Comunque salutiamo Giordana, che ormai è diventata anche lei gendarme di Maria De Filippi, adesso fa tipo e ci congratuliamo dei cantanti, sì, per la sua originalità. Cedo la linea umilmente a Silvano, che ho voluto bullizzare anche questa volta. Senti, ma lasciamo questa canzone sotto, è molto carina. Io te la lascio di sottofondo perché così tu puoi traslare la situazione in qualcosa di meglio. Allora guarda, purtroppo siccome tu mi hai sabotato, io ti devo dire che non sarò io a presentare la puntata, ma un mio alter ego, e adesso te lo passo. Voilà, signori radiospettatori, allegria! Oggi la rubrica Simply Sample cambia volto e vuole la vostra partecipazione attiva, in quanto, e lo avrete capito dalla mia intro, diventa un quiz. Avrete allegria, gente! Tre indizi, che sono i sample presenti in questa hit del 96. Questo è il primo indizio, segnatevelo. Ma c'è la chiamata da casa? Guarda che devi mandare jingle. E aspettate, prima devo presentare e poi lo mando, ma anche lei. Anche la sigla. Non mi si intrometta, No, la sigla ormai è andata perché va bene così. Perché c'è questo applauso? Grazie mille. Bene, vai. Grazie mille. Allora, dicevo che avrete tre indizi presentati in ordine di difficoltà e potete prenotarvi con uno schiocco sul microfono che avete davanti. Tanto lo avete tutti, uno schiocco. Posso dire una cosa? Dire che io non posso partecipare perché io no, perché lei purtroppo sa tutto, lei è il notaio. La fregatura è incredibile, lei è il notaio. Lei è il notaio. Chi l'avrebbe detto? Esatto. Dicevo, adesso sì. Le cuffie le avete già, quindi via alla sigla, che sarebbe il jingle. Però prima, mi dimenticavo... Perché vi devo dire qual è il premio, perché se no perché uno fa un quiz? Chi vincerà avrà il diritto di fare come me e presentare un quiz a buffo all'interno della sua rubrica. A questo punto inviamo la sigla, cioè il jingle. Vada maestro! Allora, come avete sentito, questa è la sigla bellissima. Allora, bellissima, sì. Bella. Tutto a sorpresa, nulla di preparato. Sì. Non stiamo ridendo. Adesso, scusate, vi rimetto il sottofondo, sennò pare brutto. Perché c'ho sempre la mia doppio ruolo. A questo punto andiamo ad ascoltare il primo sample, che risale al 1974 da una canzone di Funky President di James Brown. Questo sample occorre 30 volte nella canzone. Prego, maestro. Non penso vi abbia detto molto questo sample. Io schioccherei le dita, ma non sono sicura. Ma chi è? Bruno Mars? No, non ci siamo. No, questa. Vediamo se c'è qualche ascoltatore o ascoltatrice che vuole rispondere. Ma magari, anche magari sul gruppo, Telegram. Su Telegram. Emanuela. Molto bello. Emanuela. La partecipazione sarebbe molto gradita. Ma, aspetta, la so. La risposta è la signora Longari. No, lei ha sbagliato, no. E non mi faccia fare battute perché non sono io. Non sono io, sembro, ma non sono io. Posso dire adesso? Che non posso rispondere neanche io perché no, perché lei ha letto. Lei ha letto, lei ha purtroppo anche il maestro. Bello, io volevo il quizzone di Daniele, mannaggia. Quindi è un quiz solo a 4. Mi spiace, sono morto, ragazzi. Più le persone su Telegram. A questo punto possiamo mandare il secondo sample, che risale al 1941, è di Alberto Rabagliati. Pensate, dei tempi in cui ho dato il mio primo bacio. Prego, maestro, via con il secondo. Niente proprio di meno. Bacio in quantità. Adesso, questo era un sample di testo. Tendenzialmente noi facciamo sempre sample musicali, ma questo era invece un sample di testo. Quindi all'interno della canzone è contenuto questo testo. Articolo 31. Abbiamo una vincitrice. Però il notaio, però il notaio sta però parlando. Il notaio giustamente deve dire il brano, vabbè, il brano titolo del deve brano. Dire il titolo del brano. Aspetta, lo so. Prima devo rispondere Viola. No, è vero. Vai Viola, vai. Sta rispondendo Francesco. Allora io ho visto un suggerimento che non va bene. Scusate, no, già no, siamo no. dietro, bene. Già siamo della parte dietro. Io sto controllando. Ma noi siamo la stessa persona, cioè non è che avete lo stesso microfono. Francesco, hai suggerito. Noi siamo bigordi, cioè va bene. Allora rispondere il notaio. Io non so, notaio, mi dica lei, dica lei. Allora, lei il notaio giudicare. Impone che vabbè. La vittoria andrà ad un quiz condiviso tra matematica e poesia. Per me va benissimo. A questo punto mandate un applauso, perché comunque vabbè. Hanno indovinato. Bravi, Francia e Viola. Bravi, ragazzi. Però, si smezzano però, la vittoria. Prima di fare tutto vorrei far continuare almeno i sample, almeno capiamo quali altri erano. Il terzo sample viene dal 1976. Sì, questa ce l'ho, gli articolo 31. Sì, sempre gli articolo 31. Sì, vabbè, ok, è la chiaro, stessa la risposta canzone. È quella. Ah, okay, la risposta è questa, okay. Avete azzeccato. Pensavo solo fosse un altro. Facendo ascoltare gli altri sample. E poi soprattutto se non aveste capito neanche questo, ci sarebbe stata la cosa bellissima. Ah, ok, ho capito. Allora, se avete bisogno di un altro inizio, vi faccio capire l'autore del brano in questione inviando uno spot che fece nel 92 su un'autovettura all'epoca molto in voga tra voi giovani. Prego, maestro. Puoi uscire finalmente allo scoperto, una vita a cielo aperto, il tettuccio che sconcerto. Uno, rap, è questo. Ah, puoi seguire la tua strada con mi amore. Mi sto sentendo e male. Sì, pure io. Se è Willy a me mi è uno spot della Uno Rap. È questo che dovrebbe essere? Willy l'indizio su chi la faceva. Ah. Willy il principe di Belè. Willy il principe di Belè. Ma voi avete già indovinato, ma non dovete indovinare, non deve continuare questa. Vabbè, ormai ci abbiamo preso gusto. Cioè, la banda della Uno Bianca. Perché io voglio vincere perché voglio fare il quiz sulla mia rubrica. Ma l'hai già vinto. L'hai già vinto. Allora, signora, era chiaro, signora Longari, lei ha vinto. Lei e Francesco avete vinto. Una vittoria condivisa. Ah, facciamoli più difficili la prossima volta. Sì, vabbè, in realtà il sample non era così facile. Il fatto è che c'era vicino Francesco, gli ha detto no, il titolo. Però lei l'ha capito però io subito. Io avevo capito l'articolo 31. Il notaio parlerà e dirà che Viola c'era. Questa è la sua memoria. Esatto, Viola c'era arrivata ma non aveva detto il titolo. Vabbè, conosci questa? È il gallo del forte. Patrizio. No, è il nome. Patrizio, bene, Patrizio. Betta ha vinto. Ho vinto. Ha vinto Betta, però perché ha detto il nome. La vittoria, esatto. Betta, per colpa di chi? Ragazzi, Zucchero. Va bene. Sempre là per arrivare, ma sbaglio sempre qualcosa nella mia giornata. Questo esperimento vedo che ha funzionato. Mi raccomando, Viola, a te la palla. La prossima volta toccherà a te o a Francesco o a voi due insieme. Ok. E a questo punto, maestro, io invierei il brano in questione, che era appunto, lo può presentare Viola, visto che l'ha indovinato. Tranchi Funky degli articolo 31. Prego. Funky. Qua. 1996. J-Ax e DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati. E allora... scendi giù in pista se non ti piace il ritmo, hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia, l'intrattenitore che viene dal quartiere. Tu muovi il tuo sedere e fammi fare il mio dovere. Sai che funky significa tranquillo, e su questo funky mi sciallo e non strillo. Come il parmacotto, accattate villo. Dimmi se è il mio nome, e allora dillo. E Tranky Funky è il nome del mio ballo. Col funky, oggi siamo in tanti e domani saremo sempre di più. E adesso muoviti con me, ai piatti di JJ, butta giù la base e quando entro in fase ci sputo su una frase, come sempre, rigorosamente in rima, funky sinfonici, oggi come prima, e ba-ba-ba-ba, baciami piccina sulla bo di bocca piccolina, muoviti arrapante tipo play, made di playboy, ok, tutto fila liscio come con i casa day. Ehi, ci sei, ci siamo, andiamo, sono pagati in pieno, vi amo. E tranqui funky come siamo. Muoviti tranqui funky, segui i legamenti con tranqui funky, segui i movimenti tranqui funky, segui le vibrazioni del tranqui funky. Gira il nodo e poi respira, ogni notte l'atmosfera. E questa sera è un po' speciale, se lo vuoi muoviti tranqui funky con noi. Di voglia di parlare ne ho, ma è inutile parlare se nessuno io ringrazio tutti quanti, specie la mia mamma che mi ha fatto così funky. A me piace la musica quando trasmette sentimenti, dire le mie cose senza complimenti, bere birra, fare tardi accidenti, ballare con le tipe con i vari strusciamenti. Sono in posizione, portare il funky nella mia nazione è la mia missione. Se vuoi darmi una mano fatti avanti, scendi in pista tranqui e ballati sto funky. Un saluto da Luciano Ligabue, state ascoltando Radio Forte, questa è 100 Celle Avengers. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, poche cose amo come la voce di J-Ax, io vi ringrazio per avermelo fatto sentire vieppiù, ho avuto una goduria particolare mia nello sfumarlo. Ma anche questo è sarcasmo, maestro? No, questo è tutto vero. Però no, non è vero. A volte no. Mi confondo col mio stesso sarcasmo. Comunque lei pensi a Grido. A chi? A Grido. E chi è? Era il fratello di J-Ax. Lo vedi che io proprio lo odio da sempre. Mamma mia, oh. Vabbè, sì. Quello dei gemelli diversi, raga, i gemelli diversi. Ah già. Vabbè, sì. Ci faremo una puntata. Allora, andiamo. Cioè, mi stai dicendo che c'era una parentela, ma non l'avrei mai detto. Vabbè, niente. Allora, l'attualità. Voleva dire Gabri Grubbi. Sì, perché c'ho gli occhi sul canavaccio e quindi lo vedo proprio che pulsa. Noi sembra che ci siamo scordati dell'attualità vera, cioè del giorno d'oggi. Abbiamo proiettato il nostro parlare verso la settimana prossima, i nodi e quant'altro. Ma oggi è compleanno di Viola. Rabarbaro, se ne discute, non di corridoio. Mi piace prenderla larga ogni volta. Sta di fatto che i compleannoni si moltiplicano. In realtà poi quello che ci ha portato a saltare la puntata ci ha portato anche a inglobare, sì, se ne discute ancora, scusa, a inglobare un'altra settimana di tempo trascorso in cui c'è stato un altro compleannone, per cui un altro applauso va al nostro Angelo. Passati, vabbè, che ha fatto 17 anni il piccolo Angelo, il nostro collaboratore esterno per quanto riguarda la rubrica Artificio sulla storia dell'arte, che dopo ascolteremo, sì. Lo salutiamo. E cosa succede dopodiché? Che andiamo sul versante di coloro che sono da soli. C'è qualcuno che deve presentare. In realtà è giusto che faccia parte dell'attualità, poi cederò la linea. In quanto ci avviciniamo al saggio e la categoria dei solisti è un po' quella categoria che non a caso ne abbiamo cominciato a parlare in una certa maniera, perché si prepara al saggio a modo suo e quindi poi si sta creando praticamente la classe alternativa di musica di insieme non insieme della maestra Serena Locurzio. Musica da soli. Attenzione, perché da un momento all'altro potreste trovarvi a dover fare eseguire 5-6 pezzi all'ultimo, provandoli una volta sola il giorno 28 giugno, due giorni prima del saggio, con un clima assolutamente disteso. D'altra parte, la musica di insieme si fa insieme o anche da soli, quindi i solisti poi sono stati negli anni accompagnati dal proprio maestro, a volte soltanto al pianoforte, sobriamente, come del resto anche quest'anno ha fatto il maestro Adriano, un po' per fare le veci del maestro Stefano, vecchia gloria, e quindi lui accompagnerà, ma invece la maestra Serena sta mettendo insieme le formazioni del fantacitorio della musica di insieme non insieme, le mini band, dai, è bellissimo. Quindi scusami Franci se mi sono preso questa larga parentesi per darti la linea e consentirti di lanciare la rubrica che concerne appunto i solisti. Signore e signori, ecco a voi la rubrica dei solisti. Wow. Sigla. Orbene, messere, che il cosa? Il messere non era l'interpellabile, era l'interpellabile era laggiù. Niente, io pensavo, perché comunque la categoria dei solisti ha abbracciato un po' tutti quanti a turni, ma in effetti era territorio di Betta, che, alla quale cedo la parola. Oh, oggi mi è stato... A me? ma non mi avete spiegato siamo nulla. Tutti sul pezzo, siamo tutti sul pezzo. Se vuoi il pezzo te lo dico io, però tu di cose. Cose sui solisti? Sì, sì, prego, prego. C'hai 20 minuti per parlare dei solisti. Parliamo dei solisti. Ok, allora, i solisti, questa categoria bistrattata. Beh, dai, in realtà però al prossimo saggio, come è stato anche per l'ultimo, in realtà non saranno proprio solo solisti. Ultimamente si stanno formando delle mini band che comprendono sia i solisti che allievi di altri strumenti che magari non fanno parte di musica d'insieme, di modo a fare queste piccole mini band in cui tutti quanti suonano le loro cose e possono partecipare anche se non fanno parte dei quattro grupponi, dei quattro Elementos. Capito come? Ed è esattamente di questo tipo di categoria che ti propongo un pezzo quest'oggi, cara Betta, dotta Betta. Sì, che siccome sono preparata, mi hanno appena passato un fogliettone. Un foglietto. Era un pizzino grosso così. Non se vedeva. Io questo me lo porto a casa e me lo appendo. È un foglio a quattro enorme con scritto a caratteri cubitali che il prossimo pezzo è Rolling in the Deep di Adele, ma cantato da Vanessa. Però con una formazione un po' particolare, perché qua mi sembra che ci avete suonato un po' tutti, no? Ma questo lo potevamo anche tralasciare, del resto non lo dice il bigliettino, mi pare, no? Non è una di quelle cose che coinvolge vari presenti. Comunque, e non volete rivelarlo. Le verità scomode, sì. Verità, comunque gruppi alternativi creati. Vabbè, lo scopriremo attraverso gli strumenti appunto del pezzo, no? Sì, attraverso l'ascolto. Faremo quindi, uno più uno due. Vabbè, dai. Correva l'anno 2017, Rolling in the Deep. Vanessa. Love's on fire, the starting in my eye. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go out and sell me out of your lonesome bed. Say how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that we do. There's a fire starting in my eye, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of all the kimi, thinking that we almost had it all. The scars of your love don't leave me brotherly, I can't help feeling. make you damn. Think of me and the death of you despair. Making I home done, then this much will be shared. The scars of your love remind me of both the gimme. Thinking that we almost had it all. The scars of your love don't leave me brotherless. I can't help feeling. What you looking for? Oh, turn my sorrow into truth and gore. God, the blessing to if I want to destroy. We could do that it all. Taverna Forte Prenestino, dove il vegano non è un marziano ed il cibo è spaziale. In diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers è il momento della cultura, finalmente lo spazio. Buonasera, tutti, buonasera a tutti. I bambini soprattutto aspettavano. Buonasera, questa cosa dei bambini. Yeah! Sì. E che consta bimbi. Appunto della professoressa Viola, prego. Music. Scusa. Vai Gabri, annunciala tu. No, vai, tranquilla. Music and poetry. Sigla! Lasciatemi leggere. Vorrei sentire questa poesia. Vorrei e non so leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. Sì, fate voi ragazzi oggi. No, vabbè, mi occuperò anche io ovviamente di poesia, però sono come in una bolla di sapone oggi, ecco, un po', non so, così, mi sento così, immaginatevi. Vabbè, allora, buonasera a tutti e oggi parleremo di un poeta a me caro, perché diciamo siamo delle stesse origini, ecco, un poeta salernitano di nome Alfonso Gatto. E diciamo che Alfonso Gatto appunto nacque a Salerno appunto nel 1909, poco più che ventenne, diciamo, però dopo un tormentato percorso all'università decide di iniziare il suo peregrinare per l'Italia, portandosi diciamo dietro la sua naturale inquietudine, le sue aspirazioni, i sogni, le sue speranze e sofferenze. E infatti nelle sue poesie diciamo troviamo sempre motivi di struggente nostalgia per la fanciullezza e i luoghi nativi. Diciamo che lui fu molto attivo sia dal punto di vista anche giornalistico, e in questo periodo diciamo era molto diciamo faceva parte proprio della resistenza antifascista, e infatti venne pure arrestato dalla polizia fascista, diciamo, per attività contro il regime, e finì a San Vittore. Nello stesso tempo si avvicina molto a quelli che erano anche, cioè era l'ideologia dell'epoca, quindi di altri poeti importanti, che era l'ermetica, e che in opposizione a questa forte corrente politica si caratterizza da un'evasione di quello che è il reale. E quindi ed è qui che compone la sua poesia, che è una poesia pura, libera da ogni condizionamento e fonte di conoscenza, perché fornisce le risposte sul destino dell'uomo sospeso tra il tempo e l'eterno, quindi si distacca da quella che è la società pragmatica. Ma adesso non mi dilungherò ulteriormente, e quindi vi reciterò due poesie. Allora, maestro, grazie. Allora, la prima, il caprimulgo. Tornerà sempre l'ironia serena del sortileggio sulle tue corolle, fiore disfatto. E tu che voli e piangi, stridendo coi tuoi grandi occhi scuri, o caprimulgo, dalle piume molli, il buio sempre ingoierà la notte delle farfalle neri, le lucenti blatte di cui l'uomo misero rattrae le mani e gli occhi a rispettarle, umane della pietà per sé. Per la scala degli inferi discende il consenso perenne, l'ordinata congrega delle vittime plaudenti. O misura dell'uomo in sé dipinto, costretto oltre la morte, mummia, salva a schermo dalle mani, a non aver più limiti, distratta è la forza latente, il bruco insonne della materia che si traccia e insegue, un fenomeno oscuro di divenire, l'enfasi sorda che alle sue parole non crede più, ma giura. Ancora scende questa scala degli inferi, e l'informe avrà parole, chiamerà le cose, le luci vivi, i morti, i vinti, chi li desterà? Allora, ma come va? Questa era potente, questa poesia, devo dire la verità, molto. E la seconda è poesia d'amore. Le grandi notti d'estate, che nulla muove oltre il chiaro filtro dei baci, il tuo volto un sogno nelle mie mani, lontana come i tuoi occhi, tu sei venuta dal mare, dal vento che pare l'anima, e baci perdutamente sino a che l'arida bocca come la notte è dischiusa, portata via dal suo soffio. Tu vivi allora, tu vivi il sogno che esiste è vero, da quanto t'ho cercata. Ti stringo per dirti che i sogni sono belli come il tuo volto, lontani come i tuoi occhi, e il bacio che cerco è l'anima. Ma questa è emozionante. E niente, quindi ragazzi, ecco. Grazie Viola, grazie per averci fatto conoscere Alfonso Gatto, cioè almeno io non lo conoscevo. E a me apprezzabilissimo. A me è piaciuto tantissimo. Chissà il perché ho pensato a lui, seconda. Ragazzi. Poi io mi lascio trasportare da queste cose. Chissà se ho pensato a lui, perché appunto oggi, essendo il mio compleanno, non lo so, un po' queste radici, la ricerca della radice, della mia radice. E niente, va bene, grazie come sempre. Grazie a te. Per omaggiare ulteriormente il tuo compleanno, che hai voluto far passare un pochino in sordina, sì, rispetto al solito, sì, se posso ragazzi. Dire senza io vabbè. Avevo appunto questo pezzo che la ritrae questa situazione in maniera un po' così insolita. Gazebo Penguins, troppo facile. Queste cento celle Avenger, don't worry, be happy, happy, happy. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, se ne è quasi trascorsa la prima ora di incredibile divertimento in questo sabato 21 maggio. Adesso mi spengo. Faccio le partenze risata. E poi. Esatto. Che ride. Poi ci pensano i devices a fiaccare il mio morale. Non fare così. Mi butti sempre giù. No, mamma mia, ragazzi, va bene. Okay, okay. Dai, mi riprendo. Mi riprendo. Allora, questo è il momento comunque dei compleanni. Quindi, per a chiosa di questa situazione compleannesca, faremo ascoltare uno dei contributi che ha coronato il 70esimo, vogliamo dire, sì, compleanno del papà di Gabri, anche detto Angelo, anche detto uno di noi ormai, con la sua rubrica Artificio. E quindi niente, come introduzione all'introduzione della rubrica è diventato già un grande successo, ascoltiamo dirlo. La dedica ad Angelo. Se io fossi angelo, chissà cosa farei. Di sicuro la poesia di un altro non ruberei. E che coraggio avrei? Oh, oh, oh. Penso come minimo in endecasillabi scriverei. E se non fosse chiaro a tutti, sul legno lo inciderei come tizzoni che sono bruciati bene. O il parco delle civiltà, che se non me lo abbattono io per orgoglio lo terrei. Angelo, se io fossi angelo, radici ed ali ti darei. Un libero pensiero critico e la saggezza ti donerei. La storia dell'arte poi e Papa Sidero, la vera musica, che non è solamente ponzi ponzi. Se io fossi angelo farei grandi orazioni nelle piazze e nelle case, sarei la voce della madre e della madre, da zero a uno nella storia. E come angelo ne parlerei con Dio e finire interrogandolo a modo mio. Che famo? Un po' dei ponzi ponzi. Sempre tu, amore cuasto, come sai fare tu? Che dici, Angelo? Ti è piaciuta Ponzi Ponzi? Ci avete rotti. Stai ascoltando Radio Forte e questo è 100 Celle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica a performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. 100 Celle Avengers, la musica si difende. E sempre in diretta alle 6 in punto su Radio Forte 100 Celle Avengers, la musica si difende. Questo era l'omaggio ad Angelo che abbiamo festeggiato ormai più di una settimana fa. Una grande composizione per un grande traguardo, ecco, sì, un bel compleannone, papone. E che ci ha mandato? Che ci ha mandato questa volta? Vedo che dalla regia si prendono si premono i pulsanti. Beh, anzitutto, giusti. Ovviamente, quello che Angelo fa per noi ha una ufficiale sigla. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. E niente, solo ma adesso mi sono accorto che era un po' sarà il genero dell'anno veramente. Dani, che carino. Perché... sì. Ti vuole comunque, bene, non ti preoccupare. Comunque grazie. No, e vabbè, abbiamo detto okay. il titolo non abbiamo il detto titolo... bene di Artifici, quindi vai con il contributo vocale. Artifici. Amiche e amici di Radio Forte e di Centocelle Avengers, salve. 101 Celle Avengers, una è per me. Siamo al secondo appuntamento della rubrica Artifici. Prima di cominciare devo e voglio ringraziare il maestro e la sua allieva prediletta e tutto lo staff del programma per la splendida sigla ideata e realizzata per la rubrica. Come accennato alla fine della puntata d'esordio, oggi vediamo di parlare dell'arte moderna, con particolare riferimento alla pittura. Alla pittura moderna, poi ha fatto seguito la pittura, tutta l'arte in genere, quella postmoderna, poi quella contemporanea, e vediamo di capire quando è iniziata, come e perché. Intanto è sempre difficile in ogni ambito fissare delle date precise. Tradizionalmente la pittura moderna si fa iniziare in Francia subito dopo la metà dell'Ottocento. Teniamo conto che è passato poco più di mezzo secolo dalla Rivoluzione francese, il vento dell'illuminismo, le idee nuove dell'illuminismo avevano messo le radici, avevano dato già i loro frutti. In ambito politico e sociale si era assistito ad un rivolgimento, ad una rivoluzione, tra le rivoluzioni più importanti della storia dell'umanità, la Rivoluzione francese. Ed è chiaro che questi venti di novità è ovvio che portassero un qualcosa di nuovo anche nell'ambito dell'arte. Il mondo artistico all'epoca girava attorno alle accademie, erano delle istituzioni abbastanza diffuse a livello europeo. La prima era stata istituita a Firenze, se ben ricordo, nel 1339. Ce n'era una a Roma, una a Venezia e una in Francia. Erano quasi tutte intitolate a San Luca, perché quell'evangelista pare che fosse un pittore, pare che avesse fatto un ritratto a quella giovane ragazza madre palestinese di circa 16 anni, rimasta vergine dopo il parto, così si racconta, si chiamava Maria. Quindi le accademie intitolate a San Luca. Cosa erano le accademie? Delle istituzioni statali istituite con dei fini apparentemente positivi, cioè avrebbero dovuto promuovere le arti, stimolare, tutelare, eccetera. Funzionavano un po' come funzionavano nel Medioevo le corporazioni di arti e mestieri, così come le corporazioni d'epoca fascista o gli ordini professionali odierni, che per un verso tutelano ma per l'altro verso intanto percepiscono dei soldi, delle tasse, e per l'altro verso controllano. Ora, per gli artisti dover seguire delle regole ed essere controllati nella loro attività è una contraddizione in termini. Cioè l'artista deve essere libero, altrimenti finisce per essere un accademico. Ecco, produrre dei lavori d'accademia. Questa parola e l'aggettivo accademico ovviamente, come tante altre parole, ha più significati. Se diciamo di una persona che è un accademico, lasciamo intendere che sarà un cattedratico, una persona di cultura, ma se un'opera viene definita accademica, un stile accademico, di quell'opera a quell'opera non si fa certo un complimento. Per restare all'interno dell'Accademia, quindi, ed avere a disposizione dei modelli, avere gli erudimenti delle tecniche, essere avviati un po' al mestiere, bisognava seguire le regole. Ora, verso la metà dell'Ottocento, appunto in Francia, un gruppo di artisti manifestò insofferenza verso queste regole. La pittura diffusa era quella classica, ecco, il classicismo. I pittori dell'Accademia, nella migliore delle ipotesi, diventavano ritrattisti per la nobiltà, per il re, per il clero, avevano commesse da parte loro e dovevano attenersi a regole ben precise. Intorno al 1860, quindi, dicevamo, un gruppo di giovani artisti cominciò a dipingere secondo nuovi stili, nuove regole, nuovo uso del colore, nuovi soggetti. E nel 1864 uno di loro, in questo istante non me lo ricordo, ma fra un attimo mi verrà in mente, espose al Salon. Il Salon cos'era? Era la manifestazione annuale nella quale si esponevano le tere, le opere degli artisti iscritti all'Accademia. E venne esposta Déjeuner sur l'herbe. Non mi ricordo l'autore, perché da poco compiuto 70 anni e la prerogativa dei settantenni è non ricordarsi quasi nulla. Quindi vuoti di memoria, benvenuti. Déjeuner sur l'herbe, la colazione sull'erba, suscitò enorme scandalo, tanto che si decise di eliminarla dalla mostra. E ci fu un po' di subbuglio, e Napoleone III, che era invece interessato a queste nuove forme artistiche, istituì le Salon des Refusés, ne abbiamo parlato anche la volta precedente. In questo Salon des Refusés, cioè il Salone dei Rifiutati, esposero tutti coloro che avevano cominciato a dipingere in maniera diversa e in contrapposizione con lo stile accademico. E quindi Renoir, Degas, Monet, Manet, con le loro opere innovative. Ovviamente le Salon des Refusés ebbe più successo del Salone ufficiale. E quello, si è capito, tutti questi pittori vengono un po' ricompresi nella corrente dell'impressionismo, che ebbe una vita tutto sommato breve, durò una ventina d'anni, non di più, ma fu sufficiente perché in Francia e poi in tutta Europa le regole della pittura venissero a poco stravolte. Allora, dagli impressionisti teniamo conto che anche Van Gogh per un certo periodo si è avvicinato agli impressionisti, lasciando la sua tavolozza scura con la quale dipingeva le prime opere, quelle, per intenderci, i mangiatori di patate, insomma, scure, terre, e proprio guardando i colori degli impressionisti si schiarì la sua tavolozza. E quindi l'impressionismo con Van Gogh, e poi accenni di espressionismo, e poi il simbolismo, e poi il futurismo, il cubismo, il surrealismo, ecco, una miriade di correnti e scuole che caratterizzano questa benedetta arte moderna. In realtà l'arte moderna è un gesto rivoluzionario, così come lo era stata la rivoluzione francese nei confronti di un assetto politico stantio e secolare. L'arte moderna rompe tutti i canoni dell'arte preesistente, che era diventata appunto di accademia. Non era vero. Hai perso il posto di genere dell'anno? Proprio guardando i colori degli impressionisti si schiarì la sua tavolozza. Quindi l'impressionismo con Van Gogh, e poi accenni di espressionismo, e poi il simbolismo, e poi il futurismo, il cubismo, il surrealismo. Ecco, una miriade di correnti e scuole che caratterizzano questa benedetta arte moderna. In realtà l'arte moderna è un gesto rivoluzionario, così come lo era stata la rivoluzione francese nei confronti di un assetto politico stantio e secolare. L'arte moderna rompe tutti i canoni dell'arte preesistente, che era diventata appunto di accademia. La difficoltà per molti di noi a avvicinarci all'arte moderna nasce dal fatto che siamo ancora abituati a concepire, molti di noi sono abituati a concepire la pittura essenzialmente come espressione di imitazione della natura. Picasso diceva, fra tante altre cose, la pittura ha un suo alfabeto, la natura ha un suo alfabeto, la pittura ne ha un altro. Chi vuole capire la pittura deve imparare quell'alfabeto. Se non vuole imparare quell'alfabeto, vuol dire che continuerà a fruire dell'arte antica, e quella moderna gli resterà sempre oscura. Questo concetto io l'ho espresso con 7-8 versi che recitano questo. Fino al Novecento l'arte è il monologo dell'artista che si racconta a chi lo guarda, col linguaggio della natura, viva o morta che sia. Poi diventa una sfida tra chi la fa e chi la legge nel raccontar se stessi. Perciò non è facile capirla e amarla. Gli ultimi 30 secondi li dedico ad un pensiero di Gombrich, il quale suggeriva ai contemporanei, quindi a noi tutti, insomma, di sospendere il giudizio sull'arte del loro tempo, perché saranno i posteri a decretare se le varie correnti artistiche, i pittori e le opere saranno o no dei capolavori. Grazie, alla prossima. Di nuovo pacatamente in diretta alle 18.13 su Centocelle Avengers. Ringraziamo ancora Angelo per il contributo e andiamo a proseguire con la rubrica che contraddistingue la nostra scuola, quindi è un pezzo di attualità se vogliamo. Virgi, vuoi dire qualcosa in merito? Volevo dire che intanto dovevi parlare dell'attualità, maestro. Ma dell'attualità che sta arrivando. Vabbè, ma non facciamo finta di niente. Sei ancora genero dell'anno, non ti preoccupare. L'Umbria Jazz, maestro, hai qualcosa da dirci sull'Umbria Jazz? L'Umbria Jazz la pensavo più legata ai miei traumi. Esatto. Però e infatti stiamo arrivando alla rubrica quella lì. Quindi quei quattro di cui sono proprio veramente, niente, guardate. Allora, fate finta che io non sia quella che ha la scaletta nel davanti. Fuori onda gliel'avevo pure detto, lei ha detto: "Ah, sì, è vero, ci sono quelli". Certo. Stato anche l'accendino. Ma questa è una sola defiance in malo modo. Rispetto... Ecco, grazie Iron Man. Questa è una sola defiance rispetto al solito. Allora, no, stiamo per presentare Los Quattro Elementos, il nostro, diciamo, la nostra rubrica che riguarda il nostro laboratorio, quindi manderei una sigla intanto. Così è felice. Vergogna. No, scusate. Los Quattro Elementos. Elementos, l'aire, l'acqua, tiene un forno, cuatro elementos, los que tocan juntos, los cuatro elementos, los cuatro elementos, tierra, fuego, el aire, el agua, cuatro elementos, los que tocan la música juntos. Ay, ay. Sì, vabbè, sta durando un po' troppo, sta sigla, eravamo tutte lunghe. Come sì? Dai, chiudiamo. Los cuatro elementos, los que tocan la música juntos, juntos. No. Se non altro perché sei tu quella che quest'oggi si occupa dello Squadra Elementos. Mi taccio. Io come sai tengo sempre un basso profilo, quindi non volevo assolutamente modesta, inserirmi quanto così. È modesta, veramente. Ma soprattutto un basso. Basso profilo, perché adesso sto per suonare il basso. No, allora, finalmente ho un componente del gruppo che ancora non era accaduto, al di là del maestro, quindi del gruppo dei Terra. Finalmente c'è uno dei componenti del gruppo in questa redazione. E quindi io manderei subito lo Squadra Elementos, che questa volta ha all'interno dei bloopers. Prego. Allora, aspettate, qual è la... Ok. 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4. All of my friends would think that I'm blessed. They don't know my goodness. Laboratorio acqua, come Aquaman. Anita ha appena detto che Jason Momoa è a Roma. Jason Momoa è a Roma. Ce lo devi dire in diretta sabato, anzi no, basta, non so quando andiamo in onda, addio. Agli atti che Giuseppe si prende la responsabilità della prossima proposta dei Beatles. Francesco, non suonare sopra questi documenti importanti, per favore. Lo sottoscrivo questa sera. Grazie Giuseppe. Ho questa foto di pura gioia. È bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, quello che non c'è. Che bello sapere che tutto questo finirà in radio davvero. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, dopo aver passato in rassegna lo Squadro Elementos, con un applauso da parte mia a Virginia, che ci ha dato quella faccia vera del realismo pasoliniano. Ancora tenendo nascosta la roba, quelle ancora cose che si celano, invece lei ce l'ha messe tutte, sono contento, bravissima. E quindi elementi dei Quattro Elementos, mandatemi roba perché facciamo i bloopers. Oh, molto bene, molto bene. Quindi questo è ufficiale, anche registrato. Virginia si occuperà da oggi dello Squadro Elementos. Yeah, dove stanno i bambini che fanno yeah? Tornando a quello che mi dicevi prima, erroneamente, ma questo ti si perdona per grazie tutte queste cose che fai per noi. Grazie. Volevamo parlare dell'attualità, ma in realtà dell'attualità del futuro. Nel futuro, quindi lanciare semplicemente quello che è stato un successone dell'anno scorso, un rubricone, un appendice di Traumi Fonici che era appunto dedicata al Festival Umbria Jazz 2021 in quel caso, che è stata una telenovela bellissima con vari protagonisti, Tommy, rincontreremo tutti. Le cose fatte a modino. Quest'anno però sa di fatto che non c'è sta più la scusa del Covid. Comunque i festival, non so se l'avete notato, si sono un po' rincicciottati, non fanno più quelle cose in sordina con pochi nomi. Anche Umbria Jazz è ritornata un pochino a essere quella che era. Quindi, senza fare pubblicità, ma facendo pubblicità, soltanto per farvi capire di cosa sarà composto poi il bellissimo montaggio audiofonico che sarà il reportage, sempre se me lo faranno fare, perché appunto essendoci da fare quest'anno, capace veramente, mi prendono sto registratore e me lo fiondano di sotto, e con me compreso. Comunque l'8 luglio, sì, capace che mi faranno anche dire che ci sono i funk off, il 9 luglio, per esempio, Joss Stone, Never Forget My Love Tour. Il 9 luglio ci sarà Marisa Monta e Gilberto Gil and Family, nostra gente. E il 10 luglio ci sarà Gonzalo Rubalcava e Aimé Nubiola, che già ci sono stati l'anno scorso, in duo, cioè praticamente la serata cubana, quella veramente dura, con i Cima Funk, che l'anno scorso c'erano il Covid, quindi quest'anno replicano con Gonzalo Rubalcava e Aimé Nubiola, che era quella di Pami tu ne resnano, tiene la bemba colora, quella lì, molto allegra, l'abbiamo sentita. Cristone, Kingfish, 11 luglio, Ingram, e Jeremy Callum. Il programma vuoi leggere? Cioè, sì, ma è quasi finito. Didi Bridgewater, Gli Incognito, il 12 luglio, il 13 luglio, The Comet is Coming, e Cory Wong, almeno questo me lo volevi far dire. Ok, semplicemente perché era una vecchia conoscenza nostra. Herbie Hancock, il 14 luglio. Ci piace. Diana Krall, il 15 luglio. Tom Jones, capito chi è ancora vivo quando tutti gli altri sono morti? Tom Jones il 16 luglio e Jeff Beck plus very special guests Samara Joy e Pasquale Grasso, trio incredibile, il 17 luglio e se ne torniamo tutti a casa insieme a Tommy con le cose fatte a modino. Scusate se ho preso questa parentesi, ma no, più attualità di così, cioè, questa insomma, era appunto legata a quel momento in cui 100 Cell Avengers strizza l'occhio ai fonici con una rubrica tutta loro che ha anche una sigla incredibile, Traumi Fonici, sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E di cosa vi parlo rapidissimamente quest'oggi a Traumi Fonici? Andiamo a rivangare il 2013, correva l'anno 2013, perché lo vado a ripescare? Perché comunque ci si ricollega a un personaggio che praticamente ha fatto 100 Cell Avengers, è uno di noi, è la colonna portante delle nostre rubriche, delle nostre sottorubriche spin-off, in una parola, anzi in due, Michael Jackson, incredibile. E io ho avuto il privilegio, lo posso dire, a Traumi Fonici, di fare cosa a Michael Jackson? Assolutamente niente. A lui no, ma alla sua stirpe. Niente, la situazione è questa. Cari spettatori di Telemergellina, per presentare il numero che segue non ci sono parole. Ve lo ricordate, il batterista Parascandolo, quello che accompagnò nella sua tournée in Puglia, Campania e Basilicata, il famosissimo cantante Gennarino Savastano? Indovinate chi abbiamo l'onore e il piacere di avere stasera qui in studio? Il fratello di Parascandolo. incredibile. Ecco, la situazione è un po' questa. Allora, i 3T, anche te 3T, scritto 3T, trattasi di... No, trattasi di Tyron e TJ Jackson. Sono i nipoti di Michael Jackson. Figli... Jackson 3. Bravo, brava. 3T, figli di Tito Jackson, uno dei Jackson 5. Ah. Ok, ci siamo. Non avrei altro da dire. Allora, attraverso tutti questi legami incredibili arriviamo a me, che comunque li faccio al Laboratorium Seraphicum di Roma, fuori mano, insomma, in un'iniziativa così strana, organizzata da un'associazione pro patria, collaborazione italo-rumena for Africa. Sto riportando tutte verità, assolutamente. E niente, ho questa incredibile opportunità di approcciare i 3T che sono... I nipoti ufficialmente di Michael Jackson. E secondo voi hanno preso qualcosa da... dallo zio? No, assolutamente. Cioè, nello stile, dico. Cioè, secondo voi vanno in giro a cantare? Fanno cose loro? No. O assomigliano vagamente? Ariel dice che somigliano. Ok, sono una boy band, scusa, ero io, colpa mia. Una boy band di tre che fanno appunto dei Michael pezzi abbastanza. Sì, quindi, cioè, comunque, è un moderno. L'emozione era tanta, devo ammettere, era tanta. E uno dei tre assomigliava veramente a Michael, gli altri due veramente cacati, cioè potevano aver preso chiunque e dire che era parente, però uno effettivamente lo guardava in faccia e dice: oh, vedi. E niente, in questa bellissima iniziativa io, cioè, ricavo un trauma fonico anzitutto perché la Pro Patria non mi ha pagato, quindi se ancora ci fosse in giro la signora Lucescu, come cazzo si chiamava, che mi doveva darsi 600 euro per questa cosa che comunque valeva molto di più per lo sforzo profuso. Va bene, ma il trauma poi l'ho tratto in un altro momento in cui io ho voluto vivere un momento di vanità, di quei pochi momenti che i fonici si concedono. Allora, tutti poi abbiamo vissuto, cioè viviamo la questione, diciamo, feticcio. Io per la età penso di aver vissuto un'epoca in cui ancora c'era il feticcio sotto forma di autografo. Non c'era la foto con il selfie. Cioè, a me mi hanno fatto una foto con Venditti allo stadio, che è stato proprio grasso che cola, che c'era un amico con la macchinetta che poi va sviluppata, corri! Cioè, una cosa, ok. E quindi ero legato ai gli autografi. Cioè, io una volta ero a Villara, avevo fatto sega. Un mio compagno con cui avevo fatto sega mi fa: oh, ma quello è Gelindo Bordin. Chi? Lo rincorre e c'è stava Gelindo Bordin, che scopro essere campione del mondo della maratona delle Olimpiadi trascorse poco prima, che per lui era Nilo. E quindi io sono andato avanti poi, cioè, con il suo autografo, nonché quello di Gianni Minervini, grande gloria del nuoto. Vabbè, insomma, per dire, cioè, che poi però poi facendo la professione del fonico devi entrare in una professionalità che tutte queste cose te le fa mettere un po' nel cassetto, perché tu ti trovi continuamente a contatto con varie celebrities di cui in modo veramente trasportato o fintamente trash trasportato vorresti comunque vabbè, però farlo significa appunto scagliare il lavoro, comunque essere unprofessional. Quindi e soprattutto è una cosa legata al successo della cosa, cioè come va la, per cui per esempio io immaginavo veramente con Cristina D'Avena, di cui abbiamo parlato l'altra volta, cioè di fare selfie, cose, cioè già stava a cantare. Poi quando le cose andarono male, come abbiamo detto, cioè capì che non solo non ci sarebbe stato selfie, non ci sarebbe stato neanche dialogo. Ma comunque dato con le 3T andrò bene, questa è la cosa. Che io dopo le 3T, che finalmente mi ero spangata questa cosa tutto da solo, vado dentro e dico: oh, mi faccio. Però nel 2013 io ancora dobbiamo capire con Gabby se effettivamente esistevano o non esistevano. Sta di fatto che io non avevo capito che i telefoni ci potevano avere la telecamera che si girava. Quindi cercai di andare lì un po' molesto in mezzo alla gente, comunque con sta tensione mia che non mi dovevo far troppo scoprire, perché il tecnico stavi non lavorando. Deve far così. Vado lì e giro il telefono con la mano a conchetta, facendomi venire un crampo, sperando che scattasse, perché loro comunque si concedevano per quei due secondi, poi dopo che ciao. Come è finita? Scattato o no? Secondo voi? No. Per essere un traumafonico? Allora, o no, o sì, però hai fotografato solo se sei cambiato la faccia. Mano. Oppure no, sfocati. Non ho proprio fotografato niente. Non è riuscito niente di questa operazione, purtroppo mi sono portato il rammarico dentro di me e il conseguente trauma fonico. Per questo, anche se auguro salute al buon Tito, abbasso, puoi alzare, al buon Tito, in realtà la canzone con cui andrei a chiudere ironicamente è Il Testamento di Tito. Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est dicevan che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano, con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il suo nome, ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onora il padre, onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando mio padre si fermò il cuore. Oh, aria, oh, va, Radio Forte, libera autogestita, questa cento c'è la Avengers e uscirono finale. Oh, aria, va, oh, Sei e 35 su Radio Forte, Centocelle Avengers. Questa voce angelica mi aiuta a ricordare che c'è sta. Ma quanto quella sei rubrica caro. Là, quanto sono caro. Quella rubrica che si occupa dei plagi, dei copioni, dei bruttoni sì. Che copiano. Sì, che si tratta di Cigni di Balacà. Vai con la sigla. Uomo, papà. Papà, guarda. Ma papà, ma papà, ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balagà? Ed eccoci rientrati allora nell'estemporaneità che caratterizza un po' questa rubrica. Io ho pensato, beh, vediamo un po' di che cosa potrei parlare oggi. Mi sono svegliata con, ecco, ho pensato subito al brano che avevo in testa stamattina. Era Rock the Casbah dei Clash. E a tutti noto, insomma, che fra poco anche ascolteremo. E intanto, partendo da questo spunto, ho anche scovato qualcosa di interessante appunto sui Clash, che anche per quanto riguarda quello che più mi compete, che, come dicevi appunto, suononi, e quello di cui ci occupiamo ai Cigni di Balacà sono i plagi, quindi il plagio musicale. E che ti scopro quindi sui Clash? Allora, niente dispute legali questa volta. La vicenda infatti non è mai approdata nei tribunali, non in quelli ufficiali almeno, ma come spesso accade, poi è stato davanti al tribunale di Twitter che la vicenda si è poi dipanata, ecco, e su questo ci stava bene un zaratum, no? Me lo fai? grazie, e il tribunale di Twitter, perché tutto ha inizio... No, vabbè, questa cosa del tribunale di Twitter mi era uscita, mi è piaciuta. Vabbè. E la vicenda, ecco, sì, da inizio nel 2010, quando questa giovane pop band anglo-irlandese, gli One Direction, escono vittoriosi dal Talent X Factor UK, e raggiungendo una certa poi notorietà che li porterà a pubblicare ben 5 album ed a crescere sempre più la cerchia dei propri fan. Tra l'altro, ora che hai fatto sentire le tre T, no, mi ha fatto pensare in qualche modo, perché da giovane boy band, certo, più talentuosi probabilmente sarà anche per il sangue che gli scorre nelle vene, quello di Michael Jackson. Comunque gli One Direction hanno avuto certamente il loro, diciamo, la loro fortuna, e fino al 2016, quando poi hanno deciso di prendersi una bella pausa. La voce dei fan, quindi, di cui parlavo, ad un certo punto però si è diretta proprio contro la band neoformatasi, quando è uscito nel 2012 il loro brano Live While We Are Young. Infatti la canzone appena citata degli One Direction, che è il primo singolo dal loro secondo album di studio Take Me Home, parebbe essere identica nell'intro ad un brano che io adesso non vi dirò, quindi prego la regia di far partire gli One Direction. Eccoli. Aso, è come un grande quizzettone, Silly. Ti rubo l'idea del quiz. Indovinate... No, hai perso, non puoi farlo. Vabbè, io ho perso prima, però insomma in questo caso ci piace vincere facile, perché l'intro che abbiamo appena sentito è praticamente identica a Should I Stay, Should I Go? Esatto, non che non torniamo ai Clash. Voi non capite. Cioè, praticamente è la stessa, ma suonata dalle pippe. Esatto. Quella di One Direction. Sì, e questo vi ho scovato. Ricordiamo che Should I Stay, Should I Go, pezzone dei Clash, venne scritta da Mick Jones nell'81, inserita nell'album Combat Rock, e poi fu riproposto da Mick Jones e divenne l'unica canzone del gruppo a raggiungere il numero uno delle classifiche, pensate, 10 anni dopo la prima pubblicazione. Infatti nel 91 il gruppo ha deciso di ripubblicare il singolo, che è stato anche usato per la pubblicità della Levi's, tra l'altro, lo ricordate, no? Sì. Sempre guarda pubblicità da Levi's, stiamo, sì. Questa cosa non sono finiti in tribunale. No, non ci sono andati in tribunale. Incredibile. Ma qualcuno ha menato a qualcuno? Si sono menati su Twitter, e ho scoperto che a difenderli sono state immediatamente sono scese immediatamente in campo le Directioner. Le Directioner. Le gruppi. Che sarebbero le gruppe, esatto, le gruppi dei One Direction. Le Directioner. Eh sì, però ecco, la querella si è fermata su Twitter, non è mai arrivata davanti ad una corte. Invece di note legali, mi puoi anche lasciare sì questo brano, grazie, va bene, di base. Si è invece tinta con l'altra vicenda che ha visto sempre coinvolti One Direction. Vabbè, questa è un po' più festa come storia, anche perché non è che mi piacciono particolarmente questi One Direction, ma in ogni caso... Però... E questa volta era proprio una vicenda di plagio e di contraffazione, che però non riguardava il brano musicale, ma riguardava il nome. E perché nel 2010 dovete sapere che esistevano due One Direction, esistevano due band con questo nome. Giura, sì. E questo stesso nome era stato scelto infatti da una band statunitense che non mancò ovviamente di opporsi e mandare diffide ai loro compagni, colleghi, cugini irlandesi. E se non che infine, insomma, la cosa si è conclusa a favore dei cinque attuali One Direction, che hanno vinto anche perché avevano già raggiunto una maggiore notorietà probabilmente, e gli altri ahimè hanno dovuto fare dietro front, e quelli statunitensi che attualmente si chiamano gli Uncharted Shores. Iron Man vuole sapere perché te stai a sentire The Casbah, però forse vuole anticipare un po' le... Questo era diciamo un volo pindarico, perché poi possiamo tornare a fare diciamo questo grande salto e ripassiamo dal via, quindi torniamo a parlare dei Clash, anche perché si è parlato, no, poco fa abbiamo sentito Artifici e questi movimento di rottura un po' tra l'arte classica e l'arte moderna, e anche i Clash in qualche modo hanno rappresentato, sono stati sicuramente una band di rottura nel loro genere e nel genere rock, e così come appunto dei rifiutati, dei ribelli, diedero vita a questo bellissimo album, quindi Combat Rock, di cui fa parte Rock in the Casbah appunto. Ora io potrei anche andare a ripescare, esatto, alla fine l'hai citata due volte, mi sono sentito in dovere di prendere l'iniziativa. E qualche nota così rapida sulle radici di questa, di questo pezzo che è bellissimo. E dovete sapere che nel 1979, dopo il ritorno dello Ayatollah Khomeini al governo dell'Iran, l'Iran è diventata una teocrazia islamica, e Khomeini ha deciso di promulgare una serie di leggi per ripristinare la moralità. Fra queste c'era una legge un po' meno conosciuta, che imponeva il divieto assoluto di ascoltare o suonare musica rock. Una cosa del tutto irrilevante se confrontata comunque con altre leggi ben più pesanti, vabbè, però questa insomma colpì particolarmente i The Clash, che se ne uscirono quindi con la loro Rock in the Casbah, che stiamo ascoltando, e che è impregnata di termini infatti medio orientali, anche se non fa mai riferimento diretto alla storia diciamo dell'Iran. Ma diciamo che ascoltandolo il testo stesso non lascia molti dubbi su cui fosse la fonte di ispirazione dei The Clash appunto. E, infatti se noi cerchiamo l'espressione, addirittura Rock the Casbah è diventata un'espressione che adesso troviamo nello slang americano molto usata, e se lo cerchiamo nell'Urban Directionary sotto la voce Rock the Casbah troviamo questa dicitura: disobbedire e fare qualcosa che si crede sia giusto anche se non è legale. Deriva dalla canzone dei Clash dallo stesso nome. Quindi è diventato proprio assurdo. Addirittura anche in un episodio dei Simpson Marge dice chiaramente Rock the Casbah per intendere fare confusione. Questa frase quindi insomma ha lasciato il segno. Sfortunatamente tanto successo poi ha avuto anche dei risvolti meno gradevoli, perché durante la prima guerra del Golfo Rock in the Casbah divenne anche l'inno non ufficiale dell'esercito americano, e quando Joe Strummer lo venne a sapere scoppiò a piangere, così si dice. E insomma i soldati evidentemente non si devono essere messi a cercare il significato della canzone. E allora ce l'ascoltiamo un altro poco mentre Cigni va a sfumare, così come va a sfumare questo bellissimo pezzo, che praticamente, di cui se vogliamo trovare una morale, è che se imponi un divieto stupido nessuno lo seguirà. Cut the radio blare. Soon as the sheriff's out of there, Radio Forte 100 Celle Avengers, sempre in diretta, l'ultimo quarto d'ora, giusto il tempo di dire che c'è la novità di Franci. Mamma mia, velocissimo, velocissimo. Niente, subito bullizzato dal tempo, questo è sparso. Ho l'ansia da prestazione. Ai novellini facciamo questo trattamento, li mettiamo all'ultimo con l'ansia. Però tu ti presenti con una sigla. Vuoi dire anche il titolo della tua rubrica? Welcome to Grand Hotel Hilbert. Sigla. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. E l'unico modo per ottenerle è per raggiungere il piano delle idee e purificare il turbine delle passioni che sgorgano dal nostro cuore. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. È soltanto un numero. Sono sicuro che non avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? E dove vi ha portato? Quel numero non è niente. È la sintassi, è quello che esiste tra le cifre. E se voi non l'avete capito, è perché non siate voi prescelti. L'ho trovato io! E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Rabbino, il tuo Dio ha scelto me. Ma mi sembra un po' fuori del programma, poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, questa è una sigla bellissima, Franci. Certo, è un po' lunga. Quindi la sigla, finale vale taglia tutto. Sì, avete avuto l'opportunità di sentire la versione integrale solo in questa puntata, perché è una sigla che verrà sicuramente accorciata, ma abbiate pietà perché l'ho composta tipo alle 2 di notte, tipo sotto i deliri della stanchezza. Abbiamo un altro ciclista. Sarà accorciata. Bene. Allora, di che cosa parliamo oggi? Quindi, anzitutto, come dice il tizio dei video che vedo ogni tanto, che fa gli addominali, mi raccomando, non abbiate paura, allenatevi con me, quindi prendete un grosso respiro. Parliamo di insiemi numerici, matematici e pentagramma. Quindi ammazza, la tocca piano. Così a secco, bene, benissimo. Perché? A gran sorpresa. Allora, perché vediamo un po', lo scopriremo un po' andando avanti, tanto oggi è molto a braccio. Allora, parliamo. Meno 10 comunque. Esatto, vado molto veloce, quindi. Allora, molto velocemente. No. Allora, in matematica esistono gli insiemi numerici, diciamo, importanti. Questi insiemi numerici sono l'insieme dei numeri naturali, che sono i numeri naturali, quindi quelli molto intuitivamente 1, 2, 3, 4 fino all'infinito. Poi ci sono i numeri interi, che sono esattamente i numeri come i naturali, ma con insieme anche quelli negativi, quindi meno 1, meno 2, meno, eccetera, eccetera. E poi ci sono i razionali. I razionali sono i numeri con le frazioni. Quelli con la virgola? Ah no. Quelli con la virgola, anche sì, quelli con la virgola. No, ma non tutti con la virgola sono razionali. Per me è tutto una nuova scoperta. Questo c'è sì, anche per me. Riascolto volentieri questa lezione da prima. Ok, ci sono i razionali che semplicemente sono i numeri che si scrivono come frazioni, quindi sono l'insieme più grosso di questi che ho citato, perché contiene anche quelli precedenti. Detto questo, parliamo un po' di cardinalità degli insiemi, molto velocemente, perché ai matematici non si divertono se non hanno gli insiemi infiniti, perché i finiti sono quelli facili, gli infiniti sono le cose più belle, perché non c'è cosa più bella che studiarsi gli insiemi infiniti. Che succede alla sorella? Questa è una cosa, vabbè sì, ok, era così. È una massima. È una massima di noi matematici. Povero, la smetto. Allora, un insieme infinito, vabbè, diciamo molto intuitivamente, non mi dilungo in definizioni matematiche, ve lo potete insomma un po' immaginare tutto, se ha infiniti elementi, ok, bene. In particolare, gli insiemi che ho citato in precedenza hanno la caratteristica di essere insiemi numerabili. Che cos'è un insieme numerabile? un insieme numerabile è un insieme, diciamo, che si può mettere in corrispondenza con l'insieme n. Cioè vuol dire che esiste una corrispondenza tra tutti gli elementi di n e l'altro insieme, uno a uno. Cioè vuol dire che immaginate di avere due sacchetti di biglie con elementi infiniti. Uh-huh. Prendete le biglie di un sacchetto. Ad una biglia di quel sacchetto corrisponde una ed una soltanto una sola biglia dell'altro sacchetto. Sì. Questa sì, è la corrispondenza più univoca tra due insiemi. Immaginate questa cosa tra elementi infiniti. Ok. Bene. So che ci farà capire quello che tante possibilità. Capire. Allora, gli insiemi che adesso ho citato sono tutti numerabili, nel senso che sia n, vabbè, ovviamente n può essere messo in corrispondenza con se stesso, z è numerabile, anche q è numerabile. Queste cose si dimostrano, ovviamente non ve le sto a dimostrare perché sennò non finiamo più. Come? Okay. Ma come? Io vado col dubbio a prendo casa. La lavagna. Per darvi un'idea, vi leggo un piccolo estratto del paradosso dell'albergo di Hilbert, che dà il nome alla rubrica. Aspetta, vai. Vado? Ok. Prego. No! Hilbert immagina un hotel con infinite stanze, tutte occupate, e afferma che qualsiasi sia il numero di altri ospiti che sopraggiungano, sarà sempre possibile ospitarli tutti, anche se il loro numero è infinito, purché numerabile. Nel caso semplice arriva un singolo nuovo ospite. Il furbo albergatore sposterà tutti i clienti nella camera successiva. L'ospite della 1 alla 2, quello della 2 alla 3. In questo modo, benché l'albergo fosse pieno, è comunque, essendo infinito, possibile sistemare il nuovo ospite. Tanta okay. facilità. Vabbè, ma grazie scusa, ma se mettiamo 10 cristiani in una stanza. Ma me lo fate parlare, per favore. Scusa, Francia. È perché tu pensi a quelli finiti. Ma non è finito, quindi. Infiniti. Ah, no, io non allora, c'è anche il caso meno intuitivo, ma ve lo risparmio perché sennò non finiamo più. Vado? Sicuri? Vabbè, detto voi. Ok. Un caso meno intuitivo sia quando arrivano infiniti nuovi ospiti. Sarebbe possibile procedere nel modo visto in precedenza, ma solo scomodando infinite volte gli ospiti, già spazientati dal precedente spostamento. Sostiene allora Hilbert che la soluzione sta semplicemente nello spostare ogni ospite nella stanza con numero doppio rispetto a quella attuale, dalla 1 alla 2 e dalla 2 alla 4, lasciando ai nuovi ospiti tutte le camere con i numeri dispari, che sono essi stessi infiniti, risolvendo dunque il problema. Gli ospiti sono dunque tutti sistemati, benché l'albergo fosse pieno. Quindi questo è il paradosso dell'albergo di Hilbert. Bene. Vabbè, sì, vabbè, in quel caso li marono tutti, infinite volte. Gli ospiti fanno una brutta fine. Va bene. Ora, perché vi ho fatto tutto questo pippotto? Torniamo alla musica e torniamo al nostro Ma c'era la musica in mezzo. Ovviamente no, c'era, no. Sì. Sei sfiduciato. Ok, la musica c'è e parliamo appunto del pentagramma, perché che cos'è il pentagramma se non un piano cartesiano ante littera? E in realtà lo è a tutti gli effetti, ma questo poi sarà l'argomento di un'altra lezione, quindi oh mio Dio, ma non l'anticipiamo. Che figo! Esatto. Ah, questa è bella! Non me ne ero mai accorto. Allora, il piano cartesiano, vabbè, voi tutti sapete che cos'è un piano cartesiano, sì, credo, sì, vabbè, sì, ok, sì, quindi sorvolo. XY. XY, ok, perfetto, sono due rette messe perpendicolarmente che individuano i punti, vabbè, con due coordinate, ok. Bene, il pentagramma fondamentalmente è questo, perché tu hai sull'asse delle X, cioè leggendo il pentagramma in orizzontale hai il tempo, e leggendolo in verticale hai la frequenza, quindi la nota fondamentalmente, ok. Bene, ora che cosa, cioè diciamo tutto questo pippotto di insiemi numerici mi serve per dire che sul pentagramma noi mettiamo diciamo elementi numerabili, cioè nel senso le note sul pentagramma sono fondamentalmente elementi dell'insieme Q. Diciamo si dimostra facilmente, un certo linguaggio il Q. È il Q, è l'insieme di prima. No, il Q. È l'insieme dei razionali, cioè tu... Non stavi seguendo, capi, prima. E numeri dell'inizio, esatto. Sei distratta. Vai. No, esattamente. Pensate, ad esempio, che ne so, a un tempo semplice di 4 quarti. Le note che stanno sui 4 sono facilmente, insomma, la prima, un quarto, due quarti, tre quarti, quattro. Poi chiaramente si può fare anche più difficile, prendendo tempi più difficili. Ma insomma, sostanzialmente si riesce a ritrovare... riesce a ritrovare anche una formula, insomma, che individua le note all'interno del pentagramma proprio tramite un numero proprio razionale, quindi scrivibile come un numero razionale. Bene. Però gli insiemi numerici non sono finiti, e mi sbrigo, e c'è un insieme più grande che è quello dei reali, cioè l'insieme dei numeri reali sono i numeri che non sono scrivibili come frazioni, quindi non sono scrivibili come numeri come A fratto B. Ad esempio radice di 2 non è un numero razionale, e vabbè, i famosi pi greco ed E, che sono il numero, sono, vabbè, pi greco lo conoscete, e è il numero di Nepero, un altro numero famoso reale. Perché vi dico questo? Perché se, se parliamo... Lo so. Siamo persi secoli fa. Mancano 5 minuti, Franci, vai. Faccio super veloce. Perché ovviamente tempo e frequenza sono grandezze fisiche. Quindi fondamentalmente qual è il punto del discorso? Che sul pentagramma noi indichiamo delle note che pensiamo come numeri razionali, ma in realtà che noi suoniamo come numeri reali. Perché non essendo macchine, noi chiaramente non riusciamo mai a prendere una nota in un tempo super preciso. Quindi fondamentalmente andiamo a battere un numero che non è manco per il cacchio razionale, ma è reale. Ah, vabbè, ma quindi esatto. È il conflitto fra l'uomo e la macchina, insomma. Sì, più o meno, però diciamo è il fatto che essendo grandezze fisiche, diciamo, sono numeri reali. Ma c'è un ma, e chiudo, finisco la mia parte. ci sono anche figurazioni all'interno del pentagramma che in realtà, diciamo, non sono razionali. Ad esempio, un esempio può essere il flame della batteria, cioè il colpo pram, insomma, per capirci. E quello non è un numero razionale, nel senso che, diciamo, per avvicinarla a un concetto matematico, quello riprende il concetto di asintoto, cioè di un colpo, di un numero, chiamiamolo numero, per diciamo di una grandezza vicina in un modo infinitamente piccolo ad un'altra. E diesis e bemolle? Viola. Quelli sono sempre razionali. Viola, per favore. Va bene, dai. Basta, io ho finito. Di 156. Allora, passiamo subito. Grande Franci. Grazie, Franci. Io ho capito. Anche se avevo la faccia di chi non potevi ha capito. Potevi cogliere anche il piano cartesiano che è sulla timeline davanti a noi, questa qui che fa scorrere, vedi, il tempo, esatto, e la traccia, e capire quindi che io non accetto tutte queste chiacchiere da uno che dice numeri. Devi togliere una M perché numeri. C'è tutta sta sapienza, poi l'italiano, allora, cioè, c'avete ragione. Andavi bene in matematica. Allora Franci, per chi non l'avesse capito, ascoltatori, è quello che a lezione di musica d'insieme vuole sapere il numero esatto di battute prima, antecedenti, ebbene, il suo attacco, che se lo esprimiamo se in numeri razionali 23, o reali, anche se fosse 27, anche se tu gli dici no, ma comincia la strofa, no, lui vuole il numero di battute. È quindi un uomo questo preciso. Per dare un po' di contesto, sennò veramente la gente si spiazza. Scusa Franci, complimenti, cioè, per questo inizio, secondo al nostro me matematico. Ci facevi tre puntate. Sì, no, quando Anina, mancano, no, tre, quando minuti, mancano 3 minuti, ditemi voi cosa può succedere se non betta, diciamo, sì, che prende mi la parola, un po' pochini, 3 minuti sono un po', cioè, pochini, ma 3 minuti di sigla te la metto così, senza manco dite niente. C'è una rubrica dotta che si chiama Norderman, come l'ha chiamato? Norderman, Norderman su 100 c'è la media. E niente, prego. Sottofondo, maestro. Oh, che cacchio, che cacchio. Pensavo di essere salvo. 58, prego. Veloci, veloci. Compoli, elfi e ori. Buonasera, piccoli nerd. Ci provo a farla velocissima, non ci riuscirò mai. Quest'oggi volevo parlarvi di Verdone, che è quello che sentite in sottofondo. No, sto scherzando. Ma l'idea di Verdone mi è venuta proprio a causa della recente dipartita del caro Richard Benson, che veramente sentite in sottofondo. Qui c'era un intervento di Virginia, ma stiamo proprio stretti. Ma quindi... infatti non vi preoccupate, lo racconterò. Però lo faremo. A suo tempo Benson collabora con Verdone in un piccolo cameo nel film del 92 Maledetto il giorno che t'ho incontrato, con protagonista la coppia Verdone e Margherita Bui. Il film racconta la storia di Bernardo, giornalista romano, che vive e lavora a Milano e frequenta un analista perché, dopo essere stato lasciato di punto in bianco dalla compagna, ha iniziato a soffrire di depressione e ipocondria. Nel frattempo si è presto a terminare una biografia su Jimi Hendrix con la promessa di rivelazioni sulla reale natura della sua scomparsa. Nel mentre incontra Camilla, attrice piena di complessi, che anche lei fa uso di antidepressivi e ansiolitici, o ognuno si diverte come gli pare, e tra i due nascerà una profonda amicizia. Nel film c'è proprio un cameo del musicista e recensore musicale Benson nel ruolo di se stesso, come conduttore della trasmissione Jukebox all'idrogeno. Alla fine del programma addirittura si esibisce in un assolo della chitarra sulla sigla finale. Al di là di Benson, il film ha anche un'altra particolarità musicale, perché si tratta probabilmente dell'unico film al mondo, secondo Verdone, ad aver utilizzato 6 brani di Jimi Hendrix. E con ciò, saluti ragazzi. Allora ci salutiamo. Mamma mia, brava. Grande Benta. Un 39esima puntata. Allora sì, ci vediamo, De Nautica. Sì.